Ciao, non riesco a farmi conoscere con questo vecchio strano. Chi sei? Lo so, no, non solo vecchio, anche la radio è strana. Eia, chi sei? Non mi conosci anche così? Tino, ciao. No. Vabbè, non è la mia solita. Ciao Tino. Buona, buona. Adesso ti ho riconosciuto dal modo di parlare, se no non ti avrei riconosciuto. Cosa stai usando? Un brutto. È la radio strana. Si sente che sono in giostra. Sei in giostra. Sono contento per te. Avanti l'altro. Ciao Gianni, Fabrizio da questa parte, ciao Tino. Ciao Fabrizio, ma cosa sto utilizzando? Ok, brutta la modulazione. Ti sto ascoltando con il brutto con l'altro. Forse, vabbè, perché la questione è troppo alta è la modulazione. Forte, forte, aspetta un attimino. Se no abbasso, Gianni, tu vuoi mi senti? Abbastanza forte, ciao Fabrizio, ben sentito, ben entrato, va. Abbastanza forte fa. Ma troppo, devo abbassare? Sì, abbassa, abbassa. Adesso abbassate un po', come ti sembra? Fabrizio! Ancora un pochino abbasso, Fabrizio. Adesso abbassate un altro po', come ti sembra? Un cc ancora. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ecco, adesso ho abbassato un altro po'. Lascia così. Questo è l'altro capo, quello che ho messo a posto, la parte finale. Bene, bene, bene. E che microfono stai usando, Fabri? L'MC60. Ah, capo. No, no, va bene, già si sente bene. Sì, no, era quello che aveva problemi finali, troppo, io ho rimesso i finali nuovi e ce l'ho qua in prova. Gappa, risuscitato una prova parecchia. No, era appoggio, solo aveva fumato dietro solamente. Questo è tuo? Oh, il mio è ciò, sì, diciamo è mio, cioè adesso è mio, l'ho acquistato e l'ho riparato. Ah, no, no, pensavo che fosse riparazione, dai. No, no, è già riparato da un po', il mio è su, anche il mio era perfetto, anche il mio comunque avevo cambiato il finale perché col fulmine aveva scaricato lì. E poi questo c'è un santino quale che l'ho preso e era lì e l'ho messo a posto, sono arrivati i finali, montati per i finali, un po' tutti allineati e già va bene, era giusto perché non ho avuto molto tempo per poterlo provare qua. Ascoltati, io so sempre con la radio tua, Ami. Sì, lo so. Ascolta, Fabri, mentre stavi modulando adesso, ho notato, non so, magari mi sto sbagliando io, tipo del rumorini, guarda, ti faccio un esempio del genere, no, io sto parlando e sentivo una cosa del genere, giusto per farti capire cosa potrebbe essere. E umidi di vento le sono, anch'io. Ah, questo rumore così. Tu, tu, tu, tu. Forse ero io con le dita che stavo picchiando, non c'è più, no? No, non vuoi visto. Stavo facendo così, lo senti. Se ascolto la radio, infatti mi fai questi scherzi. Non ci stavo pensando, in automatico sono andato, mi vedi che le ho ribattute. Ce l'ho di vitti. E già non si sente con capo. Ma io se mi metto a ascoltare la radio, insomma, sento una cosa del genere, lo dico. Sì, lo so Fabri, devo passare, è che sto lavorando, insomma, non fino a tardi, ma non voglio neanche alzare il dito. Magari venerdì o sabato. Sì, va bene, dai, l'importante è stai lavorando tranquillo, tutto a posto, sì. Sì. E poi, quello che ti ha fatto preventivo, non so strafatto, è venuto, sì? Sì, già è venuto, ma aspetta e spera, gli ha anche scritto, a costume di gente, bene, già due o tre, aspetta, hai il preventivo, sì, no? E ci può essere gente che non ha bisogno di lavorare, ma non è possibile, lo sto ancora aspettando questo preventivo. Guarda, scusami già, sono talmente incasinati, adesso mi devo spostare da un cantiere all'altro perché con la gente che non ce la fa, no? Quindi vai toccato, vai là a chiudere cantiere, questa settimana dobbiamo chiudere, perché io sono le case marrone, sto facendo dei ripristini, terrazzi e quant'altro. E adesso devo andare a finire un lavoro di un altro che non è capo a piedi, capito? Quindi devo dargli una mano e e devo chiudere il cantiere suo. Ho capito, no, vabbè, è giusto, è importante che tu stai lavorando qui, per il resto nessun problema. Sì, avanti Gianni, dai, che io sto cercando di far vedere un disco al computer ma non ci riesco. Avanti Gianni. Ehi, avanti dai, bene, sì. No, no, sto lavorando, ho finito le notti e già lo sapevo anche te, non mi odio. Ho acceso un attimino la radio e sono qui dentro, da quando ho avuto quel problema, diciamo poco tempo per stare qua dentro, anche poca voglia, perché è funzionante tutto al 50%, quindi finché non finisco quello che devo fare non mi viene nemmeno voglia, cioè, il programma è ancora da installare bene, da rimettere i libri di stazione, un casino, lasciamo per. Vabbè, vabbè, c'è anche un po' portato, quindi sono stati noi ci deve essere stato. Sì, no, vabbè, ma io c'ho le pompe di calore attaccate in tutta la casa, quindi non è un problema. Il problema è che non ho tutte le mie cose a posto come ce le avevo prima. Finché non faccio quel piano casa, che mi sposto alla stazione, avrò problemi. Vabbè, comunque. Ecco, non riesco a far vedere, sto leggendo qua, vediamo se leggo qualcosa. Riprenditi. Io sto guardando la modulazione, fai da 9.10 a 9.20, ultima, va bene. Niente, va bene, accendilo quello là ogni tanto, vedere se fa, se è rimasto intatto, non so che ti dica. Perché questo qua ho provato, è quello che c'aveva giù, no? Ho provato ma non si può attaccare un microfono a tavola, perché è troppo amplificato a sé e ha un microfono dinamico al mare. Quindi non mi pare anche male a modularci. Comunque. Guarda, adesso lo attacco, era fermo da quando sono andato in clinica, sei rientrata, quando te l'ho messo a posto, però il problema è che poi alla fine se mi dice esattamente cosa sta succedendo ti fa impazzire, perché tu riprende, smotti, ho cambiato qualche cosa, un transistor, non lo so. Adesso lo attacco e ti dico che dopo era fermo da quando? Quasi un mese, da quando te l'ho detto che era a posto, e poi sono sceso giù al mare. Aspetta che 12, 13, 8, alimenta e te lo dico per se è rimasto tranquillo. Eia, va bene. Questo mi dispiace, è che c'è anche molti più watt, solo che all'eco, solo che, ti ripeto, mi viene male a me, non mi piacciono i microfoni da palmo, ecco perché lo vorrei cambiare, capito? Quindi, Gianni, non ti piace quella modulazione là? No, non è che non mi piace, anzi, lo tengo riconosciuto perché c'è un eco, c'è un figuera, è tutto strano, poi dal punto di vista andare questa è un po' più. Perché non c'è tipo forte, la verità c'è un fulmeato, da come l'avevo sospetto, la sua c'è un fulmeato. E mi sembrava più un branco che la verità. E invece, non era fermo, nuovamente quel problema, ma avete capito cosa gli sta succedendo, non ci capisco niente, la verità è. Scritto dai. Non lo so. Non lo so, lascio pure il controllo, non lo so proprio, ogni volta. E poi gli entri in mano, va a contrattersi e vai smonti, fai. E qua, non lo so, quei misteri, magari c'è il motivo c'è, Non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio. Aspetta che attacco l'altro, mi dici come va la radio, ci vuole la radio, Perché? Che difetto ho fatto? Cosa strana. Eccomi qua, senza eco ora, un po' più forte. Forte dell'altra? Era molto nasina che questa. È microfono normale, guarda, adesso mettiamo anche un pochino di eco. Guarda un po', attenzione, break-o! Aspetta un po', va bene. Aspetta che avete parlato in due. Allora, forse è questa la sua posizione, Vedi un po'. Se lo tieni premuto, ripete due o tre volte, se no, lo muori subito. no, è perché ha un puntino già, giusto per capire anche come funziona questo apparato, ti hanno segnato, quindi niente, volevo sapere come andava, se vuole lasciato così o meno. Ah, così va bene, adesso va bene, adesso come mollato va bene, non ha bisogno. Forse se tu lo lasci lasciato così, certo, certo. Così invece non è A. L'amplificazione ce l'ha però, vero? Sì, una bella radio presente. Ma cosa l'hai? Me l'avevo data così. No, no, non ho fatto niente io. È giusto in prova. Era una sostituzione praticamente da quello che ho dato a Fabrizio per non rimanere senza Bau Bau. E poi la sera qualcuno sta in sala, io non ti piace il tempo, mi piace fare il discorso grandissimo, e allora non a fare altro, ho attaccato la parete se non c'è niente. Sta entrando qualcuno, scusa di diciamo di sì, qualcuno sì, non sempre, perché anche io ho passato delle serate magari attaccate al computer con la radio accesa e niente, non c'era movimento, però qualcuno ogni tanto si fa sentire, Giulio, così, era entrato Roberto Meccanico la volta scorsa, così, qualcuno già c'è, Gianni, Robro Fetta, però non sono presente ogni giorno, giustamente, magari adesso sono anche con la voglia di andare al mare, quando rientrano sono stanchi, quindi non si attaccano alla radio. Io ho già capitato che ho fatto due passaggi così al volo, perché stavo andando a farmi la doccia. E io al mare non ci sto andando, sto sentendo luci, non tempo, ho fatto l'autista. Auguri allora, cosa vuoi che ti dica? Speriamo bene. Grazie, grazie. Guarda, questa luce ha dovuto. Ah beh, certo. Infatti sono a porta di luce. Per le luci, se mancherà per le luci, non ci facciamo più. Come si può ancora più. Ho capito, guarda, questa è l'altra Gianni, questa è un pochino più bassa credo di segnale. Ma è più la voce più reale, e qua c'è la voce più reale. Fabri, lo sai che radio è questa qua? E cos'è? Come ti sento, per poco mi facevi saltare a colonnina, il Seat SSB. È bella, Bella, bella, qua trovato, dai, giusto, sono abbinata con il più 5. È un'ottima radio. Bene, bene. No, diciamo che l'ho abbinato bene questo microfono, che magari raccoglie un po' di mollezza. Diciamo se c'è presente qua roba bailana familiare, ma già va bene, è che non ho trovato cosa pretendiamo, però la radio è un muletto, va bene, va bene, mi piace. No, è bella, è una bella radio. Io adesso ho questa radio qua che sto usando adesso, invece adesso devo decidere se portarmela per un altro anno giù al mare oppure portarmi una più recente e questo venderlo, era a posto, è stata fatta una manovra sbagliata e ha dovuto sostituire i finali, il pre e quindi la nuova parte finale la radio a posto. Cos'è quello? 440? Sì, un 440. Io lo so mai a 10 anni con le radiovie. Io guarda, a me piace, però hanno sempre i 10 anni, hanno lavorato già tanto. Vedere una radio così è sempre un rischio. Io questa era quella di Gian Maria, bruciati i finali e non solo, via. Lo stadio finale l'ho rifatto e niente, adesso va è a posto, per cui l'ho fatto solo quella in trasmissione senza antenna, niente, sentivo l'odore di bruciato prima più che lavorato e quindi l'ho presa e ho comprato i finali sostituite, il pre ce l'avevo io e quindi vabbè, se va bene, infatti ce la sto usando da un po', ecco, questa collegata da un po', la sto usando, la mia è sopra, vabbè, io la mia non la vendo, ho questa. Walter dall'altra parte. No, non lo so, non sono nemmeno qualche spagnolo sulla Rai Zero, cioè sto provando a vedere chi è. La prossima settimana non lo so neanche io, provo a trovarlo. Ma dove? Giù a Trentino. Aspetta, ho fatto casino invece. Appena non so, non mi ricordo niente. Aspetta. Devo rientrare a casa e sono con la casetta attaccata. Ma la ruota sempre ce l'hai? Sì, ero alla ciaccia, mi ha fatto 2 giorni così in famiglia e niente, però non potevo ritirare da lì per scendere a Trentino, capito? Sì, sono andato lì per quello, perché diciamo la verità che stavo per scendere a Fazzona, però ti stanno privando di fare tutto, praticamente tu scendi lì, rimani con questa o col camper o con la ruota attaccata, non puoi fare niente, tutto quanto devi stare in spiaggia, non puoi arrostire, non puoi fare niente, invece in questo caso qua io vado là, attacco la ruota, la posizione dove voglio io, niente, posso arrostire e farne quello che voglio, ci sono le luci, c'è il bagno, c'è tutto, capito? È un po' così la discesa a mare, che è un po' lunghetta da fare, però una volta che sei lì, la mattina te la passi al mare, la sera ti rilassi. È bella bellezza svegliarti con il mare da fare, dopo un periodo, e poi per me, a me piace la pesca. Questa volta mi è capitato un posto che uscivo dalla vela, c'avevo proprio tutto il mare, ma infatti ho mandato anche delle foto a Walter per farvi vedere, stupendo, era bello, questa volta era proprio calmo, era la giornata ideale. E andare a pescare, ci sto rinunciando anche a entrare in acqua, figurati, perché ho una leggera, non dico tite, però sono mezzo sotto praticamente. Non so se mi è entrata acqua o meno, adesso sto, mi ho messo un po' di gocce ultimamente, sto aspettando che si asciughino perché non sento al 100%, ecco. Che altro a me mi è entrata, allora è successo così, che mi è entrata acqua, mi ha fatto il bagno in piscina qua a casa, no? E c'era quel venticello fresco, sai, che ti piace, perché l'acqua era calda a calda, quindi ti tuffavi, ti alzavi, il venticello era fresco e praticamente mi ha beccato lì. L'indomani ero con la febbre, mi è durato, ho fatto venerdì, sabato, domenica e lunedì addirittura, sempre con questo mal d'orecchio e febbre. Adesso mal d'orecchio non ne ho, però è come che ho sempre le gocce quelle per il mal d'orecchio, no, che ti metti in quelle gocce lì, quindi mi sento non benissimo, ecco. Probabilmente ha preso un colpo d'aria. Ma guarda, stavo pensando stasera, adesso non so neanche che adesso muove, però adesso mi faccio una luce e poi vado a comprarmi, perché sinceramente al lavoro non mi porto grandi somme di denaro, avevo 10 euro giusto per prendere il panino alla berretta, e adesso mi volevo prendere quelle cannucce, quei cuni per la pulizia degli orecchi, quelli che si accendono. Ho capito, l'ho portato qua. Abri lì, cosa stai combinando? Cosa sto combinando? Non riesco a far vedere questo cavolo di disco che c'ho dentro, e poi mi ricordo che dovevo vederlo, c'è qualcosa che non che mi sfugge. Adesso provo a vedere dal BIOS, io non sono molto bravo con i PC, vediamo di riavviare. Ah, ma tu l'hai messo a leggere o non legge? Non lo so, vediamo un po' adesso. Riavviando, niente. Vabbè, fargli vedere, c'è un disco, perché c'è il disco SSD, non dentro, qui dentro c'è un altro disco, mi sembra lo vedeva, avevo fatto già una volta questo problema, l'avevo risolto, questa volta proprio non lo vede, non so il motivo, adesso vedo, e unità di forti la vedo, unità disco rimovibile, aspetta. Ho una recensione da fare, per sincerità, ti sento serio punto, proprio bene, bene, bene, cioè te che è già fatte più presente. Sì, perché io l'ho abbassato, me l'hanno fatto abbassare, adesso presente, che c'è niente. No, vabbè, la radio di Fabrizio è molto più forte della tua, Tu hai sempre quel leggero eco come la tua solita, però la sua è molto più amplificata, più stereofonica, hai capito? È bella bella. Ogni tanto si alza il cacchio, ecco qua. Ammassiamo. Vabbè, scusa, anch'io sto uscendo con la radio Cile, non ti credi? Se questa era una radiosia nei suoi anni, grazie a Dio sta pompando ancora. Proprio in lamiera massiccio. Perché stai dicendo che il portale famiglia, cioè Fabri. Dimmi. Ma è il caso che continui a romperti le scatole quel tutto? Perché non dai un'occhiata a quello marrone invece? Io quello non me lo controllo, con tutti i casini che ci hanno non ho voglia di mettergli mano, non lo posso solo immaginare, non faccio un solo difetto, non so nemmeno cosa che difetti fa. Fatto boh, si è spento così, non lo so. Ha già fatto più una volta, infatti ha detto non va bene, mi dici roba, oh ma c'è un filo, che cazzo l'ho perso ore ed era tutto scacciavitato, come quello, insomma scacciavitato. No, allora niente, dai, ho risposto, pensavo che era una cosa semplice. È un bel problema, non lo so nemmeno, vediamo. Adesso non è dopo non vado per vedere più su, forse passo su Google, no. Io ti ripeto, ho nel cuore quel Baobao. Come? Ho detto, io ti ripeto, ho nel cuore quel Baobao. Cosa c'è che? Ce lo ricontrollerò, qualcosa la devo trovare, qualcosa c'è. E so anche dove, perché so anche dove, però dai, lo sto controllando, ma non c'è niente di così compromesso, capito? Poi perché ogni tanto si riprende, quando smonto qualche componente, contatto l'ultimo e riprende, e mi fa uscire di testa. È mio, una tarantolina è entrata a casa. Lascia stare, dimmelo. Dove pigliere? No, un gecko che... Va bene, dai ragazzi, io avrei voglia di continuare a stare qua seduto rilassato, però credetemi, ho voglia di anche di fare una bella doccia, perché mi voglio togliere la stanchezza giornaliera. Dai, se ci siete a più tardi, così almeno mi do una rinfrescata. Sì, vabbè, io proseguo qua, che sto visto di treno, sto cercando di trovare il disco dentro. Ehi, Artino, dai, ciao, ci sentiamo, buonasera. Va bene, Fabri, buon proseguo, ciao Gianni. Beh, già faccio una chiamata dopo, dai. Ciao. No, anche io mi sono un po' in ascolto, però sto cercando di capire la configurazione del dispositivo, per quale motivo sì, però vedi che DVD CD-ROM SATA 2 sarà valori previsti, sto cercando di capire come far vedere questo cavolo di disco che c'ho dentro. Babbo, dai, sto in ascolto anch'io, e a dopo magari, se io continuo. Vai. Eccomi, sono qua, c'è qualcuno? Sì, ci sono sempre io, ma sto battagliando qua. Vabbè, nulla, non ci sono riuscito. Il disco gliel'ho fatto vedere, è a posto. E adesso vorrei fare anche qualche cos'altro, ma credo che mi serva Salvatore per lavorare qua su Radio Deluxe. Perché io ho tutti i setup, cioè che avevo salvato su Dreambox, però secondo me si può fare tanto se uno è bravo qua. Sono tutti quanti MyLogBook, che c'è tutto il setup completo, capito? Ho capito. Però beh, lui già si arrangia a fare queste cose, no? Adesso chiudo, non faccio cavolini e cavolone. Però ogni volta che chiudeva lui 2 mesi fa, fai vedere, perché c'è anche tutto il riattivazione, tutto quanto c'è qua. Ci vorrebbe qualcuno che sapesse rifare tutto fino all'anno scorso, da quando è successo il disastro. Ma io sono poco pratico di queste cose. Qualcosa sì, però non così tanto, anche se template c'è stato un macello. Anche il libro di stazione è un problema adesso, che palle. Ho formattato un disco dove avevo un po' di backup, però c'era un po' da tutte le parti, io devo recuperarlo, non lo so, vediamo un po'. Ci sì, mezzo incasinato, va. La cosa più importante era questo backup, infatti lui dice registro, non lo so, addirittura anche i timetri, anche i cose, anche che lo chiami, dai. Ho capito. E Gianni, chiuso? Oh, non lo so. Sono un po' stanco, sarebbe scendendo da quel ponteggio qui, non sono più abituato, le scalette piccole, sale e scende tutto il giorno. Come sta andando lì? Tutto a posto? Sì. Ni. Diciamo ni. Sono di persona, però così, meglio così che niente. Vabbè, ho capito. Adesso a settembre dovremo fare tutto regolare, dai. Vediamo cosa salta fuori e per quanto. Perché a quanto ho capito io, praticamente questa impresa assume quando è intasata, capito? Poi quando invece si libera un po', allora inizia a licenziare e quant'altro, però poi vabbè, giustamente tiene anche i validi, non è che quelli meno validi li manda a casa. Ho capito. Sì, speriamo bene, sì, vediamo. Adesso siamo intasati, ce n'è tanto, ce n'è tutto settembre, ottobre, novembre, quindi per il momento, poi pian piano magari le cose usciranno. È che nel periodo invernale, sai, non è tanto bello lavorare fuori, però diciamo che ce ne sono anche pochi lavori che puoi fare fuori in inverno. Lo so. Io adesso è venuto questo, ecco, vi devo fare una telefonata, oggi però non ho voglia, domani al limite. Va. Ho capito. Va bene, niente, ti volevo portare anche un altro numero di telefono di un'altra persona, che però adesso vabbè, sappi che anche lui si è dato dei lavori lì dove sono io stesso, deve essere dei preventivi ed è bravo, è quello che ti stavo, potevamo parlare, c'erano due. È che anche lui è mezzo incasinato perché è riuscito un bel lavoro, è riuscito un lavoro a Gonzaga e quindi siccome sono in due, non sono in tanti, capito? Non so quando potrebbe farti il lavoro nel caso. Ho capito, allora ti dai il numero, lo chiamo e vediamo. Sì, già me ne parlo prima e poi. Lui già prende tutto, non è che è un bravo ragazzo e insomma. Lo conoscere anche perché dalle parti del monte sicuramente lo conoscere anche. Può essere. Vabbè, io continuo qua a fare queste due cose, io non si riesco a concludere qualcosa. Va bene, dai, e io invece mi sposto un attimino fuori che così ne approfitto a riempirmi la cisterna e quant'altro, così almeno sono più libero più tardi. E ci sentiamo, ciao, buon proseguo.